Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 7 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico finanziaria. Per quello che riguarda il rapporto annuale dell'Istat sul paese, già chiarimmo la settimana scorsa che ci sono due fotografie che vengono scattate, quella del Censis più qualitativa sui comportamenti, sulle abitudini, e quella dell'Istat invece più statistica, quindi numeri alla mano, elaborazione di numeri. L'annuario dell'Istat oggi illustrato dal presidente, che poi sarà nostro ospite alle 18, del presidente dell'Istat, fotografa un'Italia e si concentra, devo dire, soprattutto sul fronte occupazione / disoccupazione. C'è anche tutto il resto, chiaramente, però il tema centrale sembra essere questo. E l'Istat scopre che tra i giovani fino a 29 anni il tasso di disoccupazione dei laureati è più elevato rispetto a quello dei diplomati. Attenzione, il titolo dell'agenzia può essere un po' fuorviante, perché è chiaro che i laureati entrano nel mercato del lavoro più tardi e quindi ci può stare che il tasso anche di disoccupazione sia più alto. È vero anche che rispetto a 15-20 anni fa siamo di fronte a un'inversione di tendenza. Fino a 15-20 anni fa i laureati avevano un accesso al mercato del lavoro abbastanza rapido, e fotografa comunque 1 milione di disoccupati sotto i 35 anni, al sud 6 donne su 10 fuori dal mercato del lavoro. Ma fotografa anche un'Italia in cui i consumi sono al palo, la spesa delle famiglie ha frenato nel 2011, e in cui sale anche il rischio povertà. Di questo parleremo più avanti. In apertura invece ci occuperemo di quello che sta capitando in Parlamento con la legge di stabilità, perché da un lato sono stati sbloccati più soldi a comuni e province, 1 miliardo e 400 milioni in più per gli enti locali, i minori tagli ai comuni sono passati da 250 a 400 milioni di euro. Però c'è tensione, i lavori infatti poi della commissione sono slittati alle 18.30, commissione bilancio del Senato, per la legge di stabilità, perché il PDL ha chiesto, attraverso il suo portavoce Fabrizio Cicchitto, più tempo, serve più tempo per esaminare il disegno di legge sulla stabilità, e abbiamo intenzione di prenderci tutto il tempo necessario per esaminare bene il provvedimento, che è quello anche sulle firme. Ed è anche il caso per il DL Liste, che è di singolare delicatezza e non può essere esaminato a camere sciolte, e quindi i lavori parlamentari appunto riprenderanno alle 18.30, ma potrebbe slittare tutto, ne parleremo in apertura. Le borse poi, come sempre, più 0,80%, altra giornata positiva per Milano, che resta anche oggi, seppur di non moltissimo, la migliore tra le borse principali. Parigi guadagna lo 0,30, Francoforte lo 0,60, Londra lo 0,50, euro in leggero rafforzamento a 1,32,20, e vanno particolarmente bene da noi le banche: UbiBanca più 4%, Banco Popolare più 4%, Monte dei Paschi più 3,30, UniCredit più 2,90%, Intesa San Paolo più 1,71%. Qui si somma al doppio effetto di uno spread ridisceso a livelli più accettabili, comunque calato, con la nascita nel 2014, con quanto deciso la settimana scorsa da Bruxelles, dai paesi dell'euro, ossia la Banca Centrale Europea, che diventerà una banca che supervisionerà le banche principali dell'area euro, quindi levando il ruolo alle singole banche nazionali. E si ragiona molto in questo momento su ipotesi di fusione che potrebbero coinvolgere sia UbiBanca che il Banco Popolare, che la Popolare Emilia Romagna, per cui ci sono doppi effetti. Sono solo in questo momento ragionamenti, ma è un po' che da quando è arrivata la notizia che la borsa su questo ragiona. Sul Monte dei Paschi, il fatto che ieri la Commissione Europea abbia dato via libera, ne abbiamo parlato ampiamente, a 4 miliardi quasi di aiuti, di prestito per ricapitalizzare la banca, il titolo guadagna da ieri e anche oggi si conferma tra i migliori, più 3,30%. 349-238-6666 per i vostri SMS. Partiamo subito con le notizie in breve. E poi chiaramente anche Facebook. Allora, sul fronte titoli, citavo le banche, bene oggi anche Finmeccanica, più 2,60 Azimut, più 1,70 Fiat, più 1,60 negativa Saipem dell'1,5, Telecom dello 0,80 come Parmalat ed ST Microelectronics, Pirelli meno 0,70. L'oro torna a 1.702 dollari l'oncia, il petrolio apre in rialzo 87,6 dollari al barile. Secondo l'autorità di vigilanza tedesca, ci spostiamo in Germania, sono 36 le banche rilevanti per il sistema in Germania, secondo appunto la BaFin, il cui fallimento produrrebbe effetti sull'intero settore finanziario nazionale. E queste banche dovranno consegnare a BaFin, che è l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca, appunto, un piano di risanamento entro la fine del 2013. Una sorta di testamento bancario che permetta una liquidazione rapida in caso di necessità. Bene l'asta dei titoli spagnoli dei bot a 3-6 mesi, tassi ancora in calo, con una domanda quasi tre volte l'offerta, quindi buona l'offerta di 3,5 miliardi di bot a 3 e a 6 mesi. Nel frattempo però continuano ad aumentare in Spagna i crediti in sofferenza, o quelli quindi di dubbia esigibilità da parte delle banche, soldi che le banche hanno prestato e che probabilmente non rivedranno più. A ottobre c'è un nuovo record, l'11,20% di tutti i prestiti totali delle banche spagnole è in sofferenza, quindi è di dubbia esigibilità. I fallimenti aziendali si sono attestati al 16,5% dei prestiti complessivi nello stesso periodo. E sale in Spagna anche il tasso di morosità sui mutui, al 3,5% contro il 3% del secondo trimestre. E di Spagna ha parlato oggi il commissario europeo agli affari economico-monetari, Olli Rehn, e ha parlato anche d'Italia, ma questa volta ha distinto. La Spagna rischia stress sui conti pubblici nel breve periodo e nel 2013 resta critica la situazione del suo debito e della sua competitività. Spain and Cyprus have very serious macroeconomic imbalances. Spagna e Cipro hanno degli squilibri macroeconomici molto seri, specialmente nel settore finanziario. In questo senso, quindi, la nostra conclusione sulla Spagna, e non ci sono sorprese visto quanto successo nel paese da primavera, è che in Spagna lo stress sui conti pubblici si è ridotto grazie alle misure prese negli ultimi due anni. Nonostante ciò, lo stress sui conti pubblici resta elevato e l'applicazione del piano di risanamento prenderà molto tempo prima di ridurre i rischi nel breve periodo per i conti. Riguardo il prossimo anno, è essenziale che la Spagna migliori la situazione della finanza pubblica e prosegua nel consolidamento dei conti pubblici. Diverso, dicevo, il giudizio del commissario europeo e anche della Commissione sull'Italia. Dice infatti: l'Italia non affronta rischi di stress di bilancio nel breve termine, ci sono rischi per il medio periodo, mentre diventano scarsi in una lunga prospettiva se verrà pienamente applicato l'ambizioso progetto di consolidamento in corso, quindi il pareggio di bilancio, traduco, il deficit pari a zero nel 2013, probabilmente non ce la faremo perché il 2013... sarà un altro anno di recessione, intorno all'1% si stima, però insomma ci dovremmo avvicinare con le manovre fatte da Monti, manovre di lacrime e sangue. Ecco perché l'Unione Europea dice: se manterrete fede al vostro ambizioso piano di risanamento, di consolidamento dei conti pubblici, non vi sono rischi nel lungo termine. Serve però in Italia una continuità nelle politiche di bilancio, quindi nelle manovre finanziarie, nell'andamento, nella gestione dei conti pubblici, sempre il commissario europeo agli affari economico-monetari, Olli Rehn. It is indeed È senza dubbio essenziale e fondamentale, come abbiamo scritto nel rapporto sulla sostenibilità dei conti, che l'Italia si mantenga fedele al programma di risanamento, che mantenga la sua sostenibilità fiscale. Tra breve raggiungerà il pareggio strutturale. Vista la tendenza all'invecchiamento della popolazione e l'elevato debito pubblico, è essenziale che l'Italia mantenga il proprio percorso di aggiustamento di bilancio. Ed è perciò essenziale che vi sia continuità nelle politiche di bilancio dell'Italia. Nel frattempo, dicevamo, lo spread, ossia la differenza tra quanto costa a noi indebitarci rispetto a quanto non costi la Germania, il termometro dell'affidabilità di un paese, mettiamola così, lo spread italiano è calato di nuovo a 310 punti base e sempre l'Unione Europea fa notare come in Italia, grazie agli sforzi di consolidamento, il surplus di bilancio, l'avanzo di bilancio, sarà il più alto dal 2000, sarà il 5,1% ed è la media europea dell'1,2%. E voglio dire, questo è uno dei motivi per cui che fanno dire all'Unione Europea che l'Italia nel medio termine e soprattutto nel lungo termine, se mantiene questo consolidamento, non dovrebbe rappresentare un problema. Certo, so già l'obiezione che state scrivendo, avremo anche i conti in ordine, ma poi stiamo ammazzando il paese. E questa è la fase 2, la fase sullo sviluppo, sul concentrare le risorse, poche, ma si possono trovare, in cui a nostro avviso Monti, che tanto bene ha fatto, e lo riconoscono tutti, sul fronte messa in sicurezza dei conti, in cui l'attività del governo, complice anche il Parlamento, si è obiettivamente fermata. C'è poco, il decreto sviluppo ha poco. Qualcuno di voi ci chiede se inviteremo a breve l'astrologa. Sì, venerdì viene l'astrologa, mi sembra il caso, no? Visto, non è che ci abbia sempre azzeccato, glielo faremo anche notare, però diciamo che ci ha azzeccato come il Fondo Monetario, come l'Ocse, se non sono troppo irrispettoso, come certe previsioni sulla crescita che poi vengono riviste ogni 3 mesi, una cosa del genere. Legge di stabilità, tra l'altro c'è anche la proroga di 6 mesi agli sfratti, veniamo all'Italia quindi, e di 7 mesi ai precari della pubblica amministrazione. Ne parleremo, c'è anche una riserva del 40% per i precari nei concorsi pubblici, così come parleremo più avanti con il presidente dell'ISTAT anche della fotografia che oggi scatta il rapporto auto di ACI e Censis, perché solo il 3,7% degli italiani pensa di comprare un'auto nuova nel prossimo anno, la metà rispetto all'anno scorso. La metà degli italiani non ha alcuna intenzione di acquistare una macchina nei prossimi 3 anni. Erano 10% in meno, erano il 43% nel 2011. Pensate quanto è peggiorata in un anno la propensione al consumo, perché parliamo del 2011, non parliamo del 2007, cioè prima della crisi. Stiamo parlando di un anno in cui ancora ce le cavamo le ferite della crisi, ma tale è stata la manovra. Ecco perché dico che lacrime e sangue e il paese non consuma, non prevede di consumare. Che in solo un anno il numero di italiani che prevede di non acquistare la macchina per i prossimi, di non, macchina nuova per i prossimi 3 anni è aumentato dal 42% l'anno scorso al 53% di quest'anno. Obiettivamente è impressionante come dato. Chi invece non ha mai avuto problemi di auto sono alcuni dei nostri politici anche locali e in particolar modo oggi torniamo a occuparci della giunta regionale del Lazio, perché c'è un problema anche di occupazione, un po' paradossale, un po' kafkiano, ma poi stanno arrivando anche notizie dei rimborsi chilometrici anche per l'ammontare. 349-238-6666 per i vostri sms e poi Facebook. Abbassare la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, drag e più. E oggi proprio di auto blu parliamo, perché ricorderete che quando è esploso lo scandalo della Regione Lazio abbiamo scoperto che su 70 consiglieri regionali c'erano a disposizione 26 auto blu che, sommate alle 4 dell'amministrazione, portavano il totale a 30 auto blu, e il che fa anche ben capire perché vi fosse in quel consiglio, ora dimissionario, una quantità così sproporzionata di commissioni, 20, perché ogni presidente di commissione aveva in automatico anche il diritto alla macchina di servizio. Poi è scoppiato lo scandalo dei fondi ai gruppi consiliari e la spending review ha fatto il resto. Allora, le auto blu sono rimaste, sono diventate 5. Certo, c'è un risparmio, perché ogni auto costa, fra noleggio, assicurazione e benzina, 2.000 euro al mese. Però c'erano anche gli autisti, e qui la situazione diventa kafkiana. Non hanno rinnovato il contratto agli autisti, diciamo, quelli che collaboravano, quelli esterni, ma ce ne sono ancora 23 per 5 macchine. Vuol dire che praticamente, se le mettiamo in ogni macchina, il posto è pieno. 23 autisti per 5 macchine, con un rapporto di cui 4 spesso chiuse in garage. Il rapporto è 9 volte superiore al numero di autisti che ci sono per i deputati della Camera, che pure non è esattamente un esempio di austerità spartana, no? E siamo a 9 volte in più. Allora, che succede? Gli autisti vanno riconvertiti, lo stabilisce la legge, ma nessuno dei 23 autisti vuole riconvertirsi in un altro lavoro, anche perché lo stipendio di un autista della Regione Lazio ha, oltre al trattamento economico fondamentale, alcune voci che spingono a busta paga intorno ai 2.000-2.500 euro al mese, più di quanto non guadagna un funzionario. Poi ci sono anche i ritmi, perché ogni autista è impegnato in turni di 12 ore giornaliere, cioè lavora 3 giorni a settimana. E c'erano casi di autisti del consiglio regionale che facevano i consiglieri comunali o addirittura gli assessori di qualche paese del Lazio. Mi chiedo se non avesse la loro volta l'autista, cioè una è l'autista di un consigliere regionale, però siccome poi fa l'assessore o il consigliere o l'assessore di qualche paese, magari è l'autista dell'autista. Io penso che Kafka rivolti nella tomba, ma non è finita qui, perché mentre gli italiani, come raccontavamo sempre per essere demagogici, come ci accusano alcuni, più della metà non vuole cambiare, non ha intenzione di comprarsi una macchina per i prossimi 3 anni, stanno emergendo dati assurdi sui rimborsi chilometrici dei consiglieri del Lazio. Ora, lo capisce anche un bambino che se tu hai l'autista il rimborso non ce l'hai, il rimborso ce l'hai se usi la macchina tua. E non, invece no, perché ci sono casi di consiglieri che, pur girando quasi sempre con l'autista, hanno presentato rimborsi allucinanti. Faccio un esempio: Romolo Del Balzo. Del Balzo è omen nomen, perché il balzo che ha fatto, come dico con massimo rispetto, Romolo, è di riuscire a portare 21.756 euro di rimborsi chilometrici in un anno. 21.000 euro, uno fa il giro del mondo. E pensate che l'ex presidente della Commissione per le Olimpiadi di Roma, meno male che non le hanno fatte, visto quello che c'era, lasciatemelo dire, che si è riunita 3 volte in un anno e mezzo, utilizzava l'auto blu, no? Perché abita a Minturno, a 160 km dalla capitale, ma anche non l'avesse usata, voglio dire, per percorrere 1.000 km, visto che ti sei riunito 3 volte, 21.000 euro mi sembrano un po' eccessivi, cioè... A meno che non ti trasportino dei moretti sulla lettiga, eppure quelli comunque ben pagati, no? Comunque c'è anche il mitico Fiorito, al secondo posto, Erbatman, ha incassato 20.900 euro di rimborsi chilometrici per l'uso della macchina propria, sebbene da presidente della Commissione Bilancio avesse diritto a venire trasportato con una delle 30 berline di ordinanza. 20.000 euro, c'è gente che ci campa un anno con 20.000 euro. E nel frattempo la Corte dei Conti oggi ha emesso un provvedimento di sequestro per danno erariale nei confronti dell'ex capogruppo del PDL della Regione Lazio, appunto Franco Fiorito. I beni posti sotto sequestro hanno un valore di 1.700.000 euro. Sono un immobile in via Catania a Roma, la villa di San Felice a Circeo, 3 abitazioni e 4 terreni ad Anagni. Quinto potere? Voglio che vi alziate proprio adesso. Andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più! C'è chi si è molto piccato perché ho detto che venerdì avremmo invitato l'astrologa, ma una volta all'anno, due volte all'anno, che male vi fa l'astrologa, con tutte le previsioni di importantissimi istituti mondiali che vengono riviste ogni 2 mesi, no? Ma veramente lei si scalda per l'astrologa? Che le ha fatto l'astrologia? Il mondo è cambiato, No, meglio Goldman Sachs che a luglio del 2008 prevedeva il petrolio a $200, peccato che poi a novembre fosse già sceso a 30 dopo la crisi Lehman. No, chiedo. Vabbè, la legge di stabilità, le misure per gli enti locali, ma anche lo scontro in commissione col PDL che chiede: no, abbiamo bisogno di più tempo, lo dice Fabrizio Cicchitto, abbiamo intenzione di prenderci tutto il tempo necessario. Anche per il disegno di legge sulle liste. Nel frattempo abbiamo saputo oggi che il 25% dei comuni ha aumentato l'aliquota IMU sulla prima casa, il 18% di un punto percentuale, il 7,5% fino a 2 punti percentuali, ma il 68% dei comuni ha lasciato l'aliquota standard per la prima casa e il 6,5% addirittura l'ha ridotta. Il 3,5% l'ha ridotta di un punto e il 3%, fortunati quegli abitanti di quei comuni, di 2 punti percentuali. Eugenio Bruno del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Ciao Eugenio. Allora, ciao. 1.400 milioni in più per province e comuni, però poi ci devi anche raccontare che cosa sta capitando ai lavori della Commissione, prego. Allora, 1.400 milioni dovrebbe essere la cifra definitiva, diciamo uno sconto sul patto di stabilità interno degli enti locali. Si è passati dagli 850 milioni della prima versione dell'emendamento di sabato al 1.250 di ieri, al 1.400 di oggi. Di questi 1.200 vanno ai comuni attraverso sotto varie formule. L'ultima, quella di oggi, quindi gli ultimi 150 milioni, per restare in tema IMU, qui facevi riferimento tu, sono un contributo che lo Stato dà al fondo di solidarietà comunale, che è il fondo che servirà a eliminare, diciamo, le distinzioni tra città ricche e città povere sul gettito dell'IMU, l'anno prossimo, quando l'IMU diventerà tutta comunale. Quindi questo è l'ultimo, diciamo, l'ultimo gettone sono questi 150 milioni. Ecco quindi che si è arrivati a 1 miliardo. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Un invito, allora, alcuni ascoltatori al 349-238-6666 anche su Facebook stanno segnalando in tema di IMU che nel loro comune, sto riprendendo, l'IMU non è stata pagata sulla prima casa, cioè i comuni non hanno rinunciato alla loro addizionale o l'hanno anche abbassata. Questo grazie alle virtuosità dei comuni, cioè non avevano bisogno di altri soldi. Beh, segnalate anche i nomi e cognomi, magari così anche come dato emblematico e di cronaca li citiamo, visto che appunto oggi sappiamo dai comuni stessi che il 6,5% ha ridotto l'IMU sulla prima casa fino a un punto, la metà, e l'altra metà fino a 2 punti. Comunque, Eugenio Bruno, che è successo in commissione? Come mai Cicchitto dice blocchiamo un attimo i lavori, abbiamo bisogno di più tempo? Sulla legge di stabilità e anche sulla legge liste? Sì, Allora, è successo, noi l'abbiamo scritto nei giorni scorsi, che la legge di stabilità era, sembrava quel treno per Yuma delle 3:10, per stare tema cinematografico. Il problema è che questo treno comincia a essere in ritardo. La legge di stabilità doveva uscire oggi dal Senato per poi andare alla Camera ed essere approvata definitivamente tra giovedì e venerdì, su spinta proprio del PDL, PDL che due settimane fa si è ritirato sull'Aventino, di fatto, se non sfiduciato formalmente, ha comunque, si è messa su una posizione di azione perenne rispetto al governo Monti, si era deciso che la legge di stabilità fosse l'ultimo atto, dopodiché si scioglievano le Camere e si andava a elezioni. Ora c'è una piccola giravolta del PDL stesso. I motivi, decreto liste, ma il decreto liste emanato ieri avrà 60 giorni per essere convertito, in quanto decreto legge è atto urgente, quindi le Camere, anche se sciolte, potranno riunirsi per esaminarlo. Secondo me il collegamento va trovato nell'attualità politica di questi giorni, cioè nella difficoltà più nel centrodestra che nel centrosinistra di trovare la futura leadership, o anche, come scrivevano alcuni giornali oggi, nella possibilità di sfruttare il più a lungo possibile il periodo non coperto da par condicio, ma qui poi si comincia a pensare in questo, male. E in questo si aggancia la legge di stabilità? Sì, questo si aggancia la legge di stabilità fino a un certo punto, diciamo. E che ne sta pagando le spese. Ne sta pagando le spese, esatto. Allora, spese, intanto vi leggo alcuni comuni, comune di Villafranca, Verona, Noimu, è inutile che mi segnalate quelli che l'hanno alzata al massimo, a Torino, Fassino, il comune di Pomezia, ma invece volevo quelli in cui l'hanno eliminata o ridotto ai minimi: Arzignano, provincia di Vicenza, IMU minima sulla prima casa, comune di Pordenone, seconda rata diminuita sensibilmente, Rossano Calabro, io vi prendo, diciamo, testualmente, quindi non ho possibilità di verifica, comune di Marano, di Valpolicella non si paga l'IMU, vabbè. Bene, va bene, li segnaliamo perché sono comuni piccoli, mi sembra quasi tutti al nord, però insomma vuol dire che e dall'anno prossimo, quando l'IMU andrà tutta, come ricordava anche Eugenio Bruno, ai comuni, sarà un bel modo, forse l'unico modo di federalismo fiscale per giudicare poi perché il comune ti chiede di pagare un IMU così alta o invece se di fare un plauso se il comune che ha ben gestito i soldi la chiede più bassa. Detto ciò, un comune può avere anche un progetto importante e chiedere l'IMU perché vuole migliorare la viabilità, per esempio, della città, e in quel caso lo spiega agli elettori, ma insomma no. Quindi questo sarà ancora più importante. Detto ciò, Eugenio, che tempi prevediamo per concludere sulla legge di stabilità? Perché come tu ricordavi, al di là del treno per Yuma, qui il tempo inizia a scarseggiare, eh? E quella è fondamentale, non possiamo arrivare al 2013 senza la legge. Sì. Lì non si transige, se no si finisce nell'esercizio provvisorio e non è il caso neanche, diciamo, di no, citarlo. Perché sarebbe un massacro, diciamo, esatto, vista la sensibilità dei mercati al tema. No, succede che in teoria dovrebbero finire in commissione, ai noi che dovremmo seguire i lavori fino alla fine, stanotte, quindi a notte inoltrata, in modo da far approvare la legge in aula al Senato domani. Dopodiché dovrebbe andare alla Camera e la Camera dovrebbe concludere in due giorni, quindi subito in commissione, giorno stesso in aula, perché se viene posta la fiducia la Camera deve passare 24 ore poi per il voto definitivo, quindi secondo me almeno fino a sabato si rischia di arrivare, e dopodiché la prossima settimana non so quanta voglia avranno deputati di tornare a Roma per il 28 e vabbè, questo 27, guarda, è una cosa che non mi fa dormire la notte. Cercheremo di farci una ragione, perché 27-28, non so, Radio 24 è aperta, alcuni di noi prendono come tutti le ferie, alcuni prendono il 27-28, altri prendono dopo, ma insomma non mi sembra un dramma se anche tu dovessi passare 27-28 a Roma. Dopodiché, se questo può essere uno stimolo, mettiamolo così, per far passare rapidamente la legge di stabilità, vabbè, aggrappiamoci anche a questo. Ma quella è la data ultima, Eugenio? Quella è il problema è che a questa data tutti gli anni si è arrivati, sì, dopo le feste, ad approvare prima la finanziaria, poi la legge di stabilità, e che da questa data dipende, essendo l'ultimo atto, dipende poi lo scioglimento delle camere, e i tempi per arrivare poi alle nuove elezioni, cioè per votare il 17 febbraio, come più o meno. Quindi no? Posso provare a tradurre? C'è il sospetto che il portare più in là possibile la legge di stabilità serva alla politica, la richiesta oggi del PDL di Cicchitto, per avere più tempo per preparare le elezioni, detto in maniera un po' riassuntiva. Guarda, dei tre indizi che servono a fare una prova, uno c'è ed è questo. Ora aspettiamo gli altri due nelle prossime ore, diciamo. Però io la leggo così. Va bene, grazie. Grazie a Eugenio Bruno del Sole 24 Ore per quello che riguarda l'analisi di quello che è successo. Vediamo, anche secondo me se va avanti così le Camere dovranno tornare a lavorare il 27 e il 28. Alcuni mi chiedono, ma perché non può essere approvata? No, perché come la legge finanziaria deve essere approvata entro il 31 dicembre dell'anno, la legge di stabilità è la vecchia legge finanziaria. Se no, vai in esercizio provvisorio, come un'azienda che non avesse per vari motivi modo di approvare un bilancio. Il problema dell'esercizio provvisorio, neanche ci voglio pensare, è che con questi mercati, con questa che si sono ritranquillizzati, vorrebbe dire dare un messaggio: signori, la politica italiana e il Parlamento è talmente nel caos che non riesce nemmeno a approvare una legge su cui tutti sono d'accordo e che riguarda i conti pubblici entro la data prevista. Voi capite che questo sarebbe viatico per iniziare a speculare su qualunque cosa, perché se manco ti metti d'accordo sulla legge di stabilità entro il 31 dicembre, figuriamoci poi da qua a metà febbraio, alla data delle elezioni. Comunque, insomma, speriamo che questo non avvenga. Comuni, a Bari la prima rata 180, la seconda rata più bassa, Misano Adriatico seconda rata per la prima casa da non versare, ad Anzio anche più bassa mi sembra, e poi Segrate, no, altri non voglio leggere quelli negativi, a Sago provincia di Milano non paga l'IMU. Li sto leggendo un po': Arco, provincia di Trento, no IMU sulla prima casa, e comune di Isso, provincia di Bergamo, aliquota minima, scusatemi, IMU minima. Adesso Rossano Calabro solo dalla seconda in poi, vabbè. Allora, adesso arriviamo anche al tema dell'Istat. Dati che obiettivamente, lo dico senza dare un giudizio sul governo Monti, ma che i conti che adesso tanto vengono apprezzati dall'Europa, il rimettere in ordine i conti, sia stato fatto tutto sulle tasche degli italiani e soprattutto di quelli più onesti, ma non solo, è innegabile. Il crollo nei consumi è stato marcatissimo dal 2011 al 2012. E non mi dite che è solo un problema di scarsa fiducia nel futuro, perché se tu sommi IMU, RC Auto e altre amenità, ripeto, è impressionante vedere come è peggiorata la propensione all'acquisto dall'auto a altri beni di consumo. È quello che sta capitando con le spese natalizie. Al di là della solita retorica dei commercianti, nessuno viene a comprare questa volta, mi sa che di retorica c'è poca. Invece comune di Barbarano Vicentino, IMU non pagato, e ancora Podenzano, provincia di Piacenza, spero di aver capito bene, IMU minima, e via così. No, mi interessava perché in effetti non sono tantissimi, sono 6,5%, però alcuni comuni sono riusciti anche a ridurla, e ora che iniziamo a giudicare le amministrazioni locali anche su come gestiscono i nostri soldi. Adesso però la borsa. Borsa positiva e Milano di nuovo tra le migliori, anzi la migliore tra quelle maggiori capitalizzazione, guadagna lo 0,90%, Parigi più 0,30%, Francoforte più 0,60%, Londra più 0,50%, l'America più 0,60%. Di nuovo forti da noi le banche per il doppio effetto: da un lato dello spread che torna sui 310 punti, ma dall'altro anche di questa ipotesi di aggregazione dopo la nascita, in realtà l'annuncio della nascita, perché sarà dal 2014, della supervisione bancaria affidata alla Banca Centrale Europea per le banche principali. Borsa Siam. Livia Zancaner, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, Livia, UbiBanca più 4,25%, Banco Popolare più 4,20%, Unicredit più 3,20%, Monte dei Paschi più 3%. a parte Monte dei Paschi che beneficia dei 3 miliardi 9 di ieri, il doppio effetto che raccontavo è quello che muove oggi i titoli. Sì, assolutamente sì, e sta muovendo questo doppio effetto, sta muovendo i titoli da qualche giorno. Da una parte, come dicevi tu, il calo dello spread che oggi al momento tratta intorno a quota 309 punti base, solo ieri sera stava a quota 320, dall'altra il raggiungimento la scorsa settimana dell'accordo sull'Unione Bancaria Europea ha innescato delle voci, delle ipotesi di aggregazione tra le banche popolari in Italia, e quindi oggi vediamo che ancora una volta vanno molto bene sia UBI sia il Banco Popolare, sì, sia la Banca Popolare delle Emilia-Romagna. Molti ci hanno chiesto, in realtà non hanno tutti i torti, ma perché se nasce un'autorità, o meglio, se alla Banca Centrale Europea viene data la possibilità di fare la banca centrale delle principali banche europee, che quindi non saranno dell'area euro, chiaramente, che non saranno più sotto le singole banche centrali nazionali, perché da noi si inizia a ragionare su fusioni tra le popolari e soprattutto tra quelle che tu citavi? Perché praticamente dicevano che alcune delle nostre banche popolari non soddisfano i requisiti che poi saranno quelli richiesti dall'Unione Bancaria Europea. In particolare le popolari negli altri paesi non hanno un assetto azionario adatto alla quotazione e quindi non hanno assetti azionari differenti, mentre da noi appunto l'assetto azionario non è idoneo, tra virgolette, ma la quotazione è in borsa soprattutto secondo i nuovi parametri dell'Unione Bancaria Europea. Quindi comunque servirebbero delle modifiche nella governance, quindi una possibile trasformazione magari in società per azioni, come si parla della BPM, e magari poi di un'integrazione tra le banche stesse. Quindi per i motivi anche di carattere, di criteri contabili, diciamo, di ratios. Per quello del Monte dei Paschi abbiamo già detto ieri, spostiamoci invece ad altri titoli, fermo restando che va bene anche la Popolare Emilia Romagna più 1,80 come Intesa San Paolo, Mediobanca più 1,40, Popolare di Milano più 1,12%. Saipem di nuovo soffre, meno 1,60%. Sì, Saipem soffre, la scorsa settimana in realtà aveva sofferto di più, si guarda sempre all'Algeria e quindi all'accelerazione sulle varie indagini che potrebbero arrivare, ma per il momento non ci sono novità, e comunque oggi vediamo anche che il settore non è andato male in Europa e il petrolio è salito dell'1%, quindi il titolo sostanzialmente si è mosso in controtendenza rispetto sia al greggio sia al comparto. Pirelli meno 0,80, Parmant meno 0,70, ST Microelectronics meno 0,50 come Telecom Italia. Su Pirelli, diciamo, le novità nell'azionariato Canfin, comunque mi sembra che comunque stiano raffreddando il mercato. Sì, in realtà il titolo sostanzialmente, allora vediamo che Canfin, che è quello più sostanzialmente più coinvolto, sì, certo, nella partita, ha perso il 3,6%. Mm-mm. Pirelli comunque sì, è stato negativo, ma probabilmente risente più dell'andamento del settore auto. Oggi vi sono stati alcuni analisti che hanno confermato per fine anno un stime di volumi per il settore nella parte bassa del consensus, quindi delle stime, con una conferma delle stime per Pirelli comunque in calo, e quindi il titolo comunque sostanzialmente risente anche di questo. Sì, parlavi del settore, però in realtà Fiat oggi in borsa si è mossa, non l'industrial, no, quindi auto e trattori è rimasta invariata, ma Fiat Auto ha fatto più 1,71. Sì, Fiat è andata bene oggi, era andata bene anche ieri, aveva segnato più 3,3%, ricordiamo che venerdì a mercati chiusi l'amministratore delegato Sergio Marchionne ha smentito la necessità di un aumento di capitale con l'obiettivo di acquisire il restante 41,5% di Chrysler, aveva parlato di strade alternative. Ieri l'amministratore delegato ha ribadito il concetto che Fiat acquisterà quote di Chrysler senza intaccare la liquidità del gruppo, quindi il titolo sostanzialmente risente positivamente di queste dichiarazioni e soprattutto della smentita di un aumento di capitale. Allora, passiamo poi a Generali e Finmeccanica. Finmeccanica, domani c'è un consiglio di amministrazione importantissimo, perché bisognerà valutare la proposta Ansaldo e Avio. Il titolo si muove bene, più 2,76%. Sì, il titolo titolo ha guadagnato terreno. Domani si terrà il CDA di Finmeccanica, che valuterà e vedrà le proposte sulla controllata in saldo energia, come ha detto lo stesso presidente amministratore delegato di Finmeccanica Giuseppe Orsi oggi dopo le indiscrezione stampa. Ricordiamo che per Ansaldo ci sono in gara il Fondo Strategico Italiano e Siemens, per Avio, di cui Finmeccanica però detiene una quota di minoranza pari al 14%, vi sono i francesi di Safran e General Electric, quindi è probabile che domani vi saranno delle novità. E questo per quello che riguarda Generali e Finmeccanica. Andiamo anche sui migliori e peggiori, altri titoli negativi, devo dire li ho detti tutti, quelli principali. Migliori e peggiori, Seat pagina gialla sui risparmi più 9%, Alcatel Lucent più 8%, Nokia più 7%, Arena più 5,40%, Credem più 4,30%, UbiBanca più 4,25%, tra i peggiori Unione Alberghi Italiani meno 15,40%, Ion Renewables meno 8,30%, Gemina meno 7%, e Borgosesia meno 6,36%. Grazie a Livia Zancaner, Radio Cori, Sole 24 Ore. Ragazzi, non ce la faccio più a rispondere agli sms, state citando tantissimi comuni, ho scatenato forse una cosa da apprendista stregone, che non riesco a gestire comuni che hanno ridotto o abbassato l'IMU. Scrive giustamente un ascoltatore, attenzione che alcuni comuni hanno dovuto aumentare l'IMU perché hanno ricevuto un taglio dei fondi di riequilibrio, pur essendo comuni virtuosi. È vero anche questo, ci sono però anche comuni che hanno fatto cassa, inutile nascondersi dietro un dito con l'IMU. Comunque l'anno prossimo sarà tutto diverso, perché vedremo esattamente, visto che lo Stato non eliminerà i trasferimenti ai comuni e in cambio darà tutta l'IMU ai comuni, quindi ogni comune avrà un bel margine per decidere quanta IMU vuole. Nel frattempo vi aggiorno su una notizia: in corso negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino un'agitazione dei lavoratori della società Flycare, è una delle società che gestiscono i bagagli all'aeroporto. Ci sarebbe il mancato pagamento degli stipendi di dicembre all'origine della protesta. La Flycare assiste varie compagnie aeree, tra cui Swiss, Kuwait, Fiumicino. Mentre dall'altra parte il presidente dell'ANAS Pietro Ciucci, a margine della giornata del cantoniere, ha detto ci stiamo avvicinando al risultato del completamento della Salerno-Reggio Calabria nel 2013. Io Ciucci non lo capisco più, a parte il fatto che vorrei anche incontrarlo per la vicenda ponte sullo Stretto di Messina, per capire quanto lo Stato pagherà di penali, e lì vorrei capire che cavolo di accordi abbiamo fatto. Ma come si fa a dire su quella che è una delle più grandi opere incompiute di questo paese non è un risultato che abbiamo già nel cassetto, perché le sfide vere bisogna conquistarsele combattendo fino all'ultimo giorno, ma noi pensiamo di farcela? Ma che è la campagna di Russia? A Ciucci, questa è la Salerno-Reggio Calabria, è 15 anni che la stiamo costruendo, almeno ricordarsi da dove veniamo. Dopodiché siamo tutti contenti che finalmente nel 2013 la Salerno-Reggio Calabria sarà completata. 349-238-6666 per i vostri sms, Facebook, il GR. Poi parliamo del ministro Fornero, che poco fa ha dichiarato il 2013 sarà un anno ancora difficile ma non più sacrifici. Beh, insomma, io me lo auguro, però al governo non ci sarete più voi. E invece della fotografia che ha scattato l'Istat su occupati, disoccupati e spese delle famiglie italiane nel suo annuario statistico diffuso oggi. Adesso ci occupiamo della fotografia dell'Istat, l'annuario statistico italiano. Due notizie però le ricordo anch'io. Slitta al 2013 l'accordo europeo sull'applicazione delle norme di Basilea 3, che quindi non potranno entrare in vigore il prossimo gennaio. L'agenzia dice come auspicato, io dico no, perché Basilea 3 andava a restringere o rendere ancora più difficile per le banche concedere credito alle piccole imprese, quindi danneggiava di fatto il sistema produttivo italiano. Quindi per me che Basilea 3 slitti 2013 è una bella notizia, ce ne faremo una ragione, dormiremo sonni tranquilli anche con Basilea 2 e Basilea 3 la vendetta, la rivedremo nel 2013. Mi sembra personalmente, è un giudizio in questo caso molto molto personale, un ulteriore irrigidimento dei modi in cui le banche possono concedere credito. Adesso non posso spiegare tutti i criteri contabili, di cui non si sente il bisogno in questo momento, di estrema difficoltà anche e soprattutto nel credito alle imprese. Detto ciò, prima di arrivare alla fotografia dell'Istat, ascoltiamo anche che cosa ha detto, perché poco fa è intervenuto il ministro Fornero, parlando proprio anche del rapporto sul lavoro, e ha sottolineato che il 2013 dovrebbe essere un anno ancora difficile, ma non vi saranno più sacrifici. Sarà un anno un po' migliore di quello che ci lasciamo alle spalle, però chiunque governi non dovrà chiedere più sacrifici agli italiani. Credo che gli italiani abbiano già accettato una dose di sacrifici piuttosto massiccia, e su questo non ci sono dubbi, sufficiente a salvare il paese dalla crisi. Io credo che gli italiani abbiano accettato una dose di sacrifici che è stata sufficiente a salvare il paese dalla crisi finanziaria, piuttosto massiccia. E questo vuol dire che il risanamento effetto l'ha avuto. Perché? Perché dal punto di vista della finanza l'Italia è oggi un paese molto più sostenibile di quanto non fosse quando il governo è entrato in carica. Questo non vuol dire che si aprono scenari nei quali la spesa pubblica potrà facilmente aumentare. Badate, ve lo voglio dire, che io potevo pensare ai miei 2 mesi da ministro e dire tanto chi verrà vedrà, ma io non ragiono così. Quindi io mi sono preoccupata di vedere che l'anno prossimo sia un anno dove la cassa integrazione, che sarà ancora molto robusta, sia coperta. Ma poi avremo l'ASPI. Ora l'ASPI ha un finanziamento suo che si aggiunge. E per la prima volta, lo voglio dire, per la prima volta ci sarà un piccolo ammortizzatore per lavoratori giovani che non hanno alle spalle 2 anni di contribuzione. Quindi nell'insieme, l'anno prossimo, la provvista ci sembra che possa essere adeguata. E questo vuol dire che le famiglie possono anche guardare, non c'è nessuna fanfara da suonare, nessuna. Però sarà un anno difficile, ma forse alle famiglie si può cominciare a dire che comunque sarà un anno un po' migliore di quello che lasciano alle spalle. Non è che bisogna chiedere di più. E poi ancora, sempre il ministro del lavoro Elsa Fornero ha sottolineato come vada potenziato il monitoraggio sul mercato del lavoro, creando anche un osservatorio vero e proprio sul lavoro. Qui c'è ancora un'idea di solidarietà come trasferimento di reddito monetario. La prima solidarietà è sicuramente quella, assistenza rispetto alla mancanza di reddito, ma non meno importante è quella dell'assistenza verso una nuova occupazione, che è uno dei pilastri della riforma del mercato del lavoro ed è una delle cose sulle quali noi come Paese dovremo lavorare tantissimo, perché a eccezione di poche aree relativamente, diciamo, orientate su modelli più virtuosi di stampo europeo, noi in questo ambito facciamo troppo poco. Quindi è un ambito dove c'è scarsa coesione sociale. E allora tutto questo, mi permetto di dire, che potrebbe dar luogo, magari allargando la cooperazione con l'Istat, e quindi si potrebbe pensare di estendere questa collaborazione per fare avviandola subito come monitoraggio della riforma, ma poi fare un osservatorio sul lavoro. E di lavoro ha parlato oggi anche l'Istat nel suo annuario statistico. Come ricordavamo, disoccupati sotto i 30 anni sono peggio i laureati dei diplomati, anche se qui attenzione, perché chi si laurea entra sul mercato del lavoro, o meglio entra sulla ricerca di un lavoro, sul mercato della ricerca di un lavoro più tardi. 1 milione di disoccupati in Italia hanno meno di 35 anni, al sud 6 donne su 10 sono fuori dal mercato del lavoro. E poi il peggioramento del quadro economico per oltre il 50% delle famiglie. Presidente dell'Istat, Enrico Giovannini, buonasera. Buonasera. Dunque, al di là del lavoro, a me ha fatto impressione, unendo tutti i dati che oggi avete diffuso, come sempre con l'annuario statistico, anche un rapporto dell'ACI che segnalava come il 53% degli italiani nei prossimi 3 anni non ha intenzione di cambiare la macchina. L'anno scorso, cioè un anno fa, erano il 43%, cioè il 10% in più in un anno. Mi sembra di poter dire che... anche voi notiate un peggioramento nel 2011, i dati sono relativi al 2011. Sì, il 2011 è stato l'anno certamente di svolta, ahimè, verso il basso. Mm-hmm. Vorrei invitarvi a tornare con la memoria alla primavera, all'estate del 2011, in cui con il balzo dello spread, le tensioni dei mercati finanziari europei, le difficoltà anche politiche dell'Italia, in quel momento credo tutto il paese si sia reso conto della gravità della situazione e anche della non transitorietà, come invece qualcuno aveva creduto, della crisi. Ed è in quel momento in cui cade il clima di fiducia delle famiglie, cadono le aspettative delle imprese, aumenta leggermente la propensione al risparmio, cadono i consumi e cadono gli investimenti. E quindi il 2011, che faceva seguito a una ripresina del 2010, è stato l'anno in cui il Paese si è reso conto delle difficoltà, il Paese è entrato in recessione, vorrei ricordarlo, nel terzo trimestre del 2011, e quindi tutti i dati che noi oggi abbiamo riunito, come facciamo ogni anno nell'annuario statistico italiano, segnalano questo forte peggioramento nel 2011. Ancora, per quello che riguarda i conti delle famiglie, voi notate come i consumi siano al palo già, diciamo, fossero al palo già nel 2011, più di 7 famiglie su 10 vivono in case di proprietà, e questo è tra virgolette positivo, e alla spesa sociale vada la fetta maggiore della previdenza, più di 2/3 della spesa per prestazioni delle amministrazioni pubbliche si concentrano sulla previdenza. È chiaro, Giovannini, che io ho bisogno però di chiederle, non ancora con tutti i dati alla mano, quanto però lei prevede che la fotografia che scatterete sul 2012 sarà in peggioramento. Beh, certamente il 2012 è stato un anno di recessione ancora più forte, le stime oscillano tra meno 2,2% al meno 2,4%, e il 2013 è previsto nella media d'anno diminuire ancora di mezzo punto secondo noi e altri, un punto secondo l'Ocse per esempio e altri, e solo nella seconda metà o verso la fine, come dice ad esempio Confindustria e anche Draghi, ci potrà essere una svolta verso l'alto, ma siamo tutti concordi nel dire che questa svolta del prodotto interno lordo non si rifletterà immediatamente sull'occupazione, come ha notato anche il Ministro nel brano che voi avete fatto sentire, perché se anche c'è una ripresa, prima si aumentano nuovamente le ore lavorate per dipendente, si riassorbe la cassa integrazione e solo successivamente aumentano gli occupati. Il dato positivo nel quadro negativo che abbiamo discusso fino adesso è che l'occupazione nel corso del 2012 è diminuita relativamente poco, cioè gli ammortizzatori sociali, cassa integrazione e altri hanno retto, le imprese, come avevano fatto nella crisi del 2009, hanno cercato di tenere i dipendenti in attesa di tempi migliori, e questo ha evitato un vero e proprio smottamento dell'occupazione. Ricordo anche che se parliamo nei settori industriali, abbiamo avuto che le imprese orientate all'esportazione hanno addirittura migliorato nel corso del 2012 la loro performance, mentre quelle orientate al mercato interno, a causa della caduta dei consumi e degli investimenti, hanno peggiorato molto le performance. Settore come le costruzioni ha avuto una crisi ed è tuttora in crisi molto nera, e il terziario è risentito naturalmente di questa situazione. Come vede, quindi, una situazione in chiaroscuro, ma certamente l'anno 2012 è stato un anno molto pesante. Adesso io vorrei, anche dopo il traffico, però capire altre cose con lei, nel senso che, Presidente, un conto è dire, come scrivono alcuni ascoltatori, attenzione, probabilmente il 2013 sul fronte dell'occupazione sarà l'anno, un anno ancora più pesante, come colpo di coda. Però capiamo tutti che parlare di colpo di coda vuol dire attenzione, tieni botta ancora qualche mese, che poi il giro di boa sarà effettivo. Altra cosa è una stagnazione, cioè un non peggioramento, ma nemmeno una ripartenza. Non bisogna essere dei fini economisti per capire la differenza. Vorrei sapere qual è la sua opinione, poi vorrei sapere che cosa dovrebbe fare, al di là del governo, del colore politico del governo, il nuovo governo, perché il ministro Fornero ha detto gli italiani hanno accettato sacrifici. Oddio, scrivono alcuni, non potevamo non accettarli, cioè, non è stata una scelta. L'agenzia di rating Standard & Poor's è tornata a rialzare il voto della Grecia da default selettivo, da fallimento selettivo pilotato, a B- con prospettive stabili, e questo è l'esito positivo dell'operazione di riacquisto, il cosiddetto buyback del debito greco da parte dello stesso Stato greco. Presidente dell'Istat Giovannini, dicevo, insomma, continuare a parlare di un recupero a fine anno, è vero che tutti i centri studi, Confindustria, Fondo Monetario, OCSE, Commissione Europea, prevedono nell'ultimo trimestre, gli ultimi due trimestri, una parziale recupero. Però un conto è parlare della fine della caduta, è un conto è parlare di un inizio di recupero, non so se sono troppo bizantino nel distinguo. No, lei ha assolutamente ragione, io vorrei soltanto sottolineare che il problema a questo punto non è solo italiano, perché tutte le previsioni indicano che l'area dell'euro sta entrando in recessione, quindi il rallentamento sta ormai toccando anche Francia e Germania, e abbiamo nell'Unione Europea circa 24 milioni di disoccupati che certo non possono essere riassorbiti con una crescita dello 0, qualcosa. Questo vale in Italia, ma vale per tutta Europa. Credo che questo sia il tema che l'Europa complessivamente deve affrontare nei prossimi mesi, con tutte le difficoltà dei vari cicli politici, ma questo è il tema su cui si regge, ne abbiamo parlato oggi, la coesione sociale di un modello democratico, capitalistico, che è cresciuto in tutti questi anni con l'idea che la crescita economica risolverà i problemi. Se, come ha detto la Merkel, fossimo davanti a 5 anni di difficoltà, è chiaro che la politica non potrebbe semplicemente dire ci rivediamo tra 5 anni, ma dovrebbe trovare una soluzione concreta, e qui ci sono varie ricette, per affrontare anche nel breve periodo, non in un'ottica puramente assistenziale, il tema della disoccupazione e della coesione sociale. Mi elenchi qualcuna delle varie ricette, Presidente Giovannini, perché a me vengono in mente soprattutto, sì, alcune cose si possono fare anche in Italia, leggi cuneo fiscale, andare a concentrare magari le risorse sulla busta paga, no? E quindi ridurre il peso fiscale in busta paga, a vantaggio in primo luogo dei dipendenti e anche delle imprese, che comunque otterrebbero quantomeno un vantaggio indiretto. Però le uniche altre misure che mi possono venire in mente sono di carattere europeo, cioè se anche Francia e Germania, soprattutto la Germania, si fermano, forse l'ipotesi di emissione di debito europeo per finanziare infrastrutture, fare ripartire un po', cioè avere politiche anticicliche. Ma mi dica lei a cosa pensava? Lei ha ricordato alcune delle ipotesi naturalmente che sono sul tappeto, ricordo anche che negli ultimi 2 anni l'Unione Europea e l'Unione particolare monetaria ha fatto dei passi avanti straordinari, pensiamo all'Unione Bancaria che fino a un anno fa, quando si discuteva di questo, sembrava impossibile, quindi la politica europea riesce a fare dei passi avanti forzata purtroppo talvolta dagli eventi piuttosto che con la lungimiranza. Io però le faccio un esempio che non viene dall'Europa ed è un esempio che è stato adottato in India nel periodo della crisi, e cioè è una situazione completamente diversa, lo capisco perfettamente, ma hanno applicato un modo di fare i cosiddetti servizi socialmente utili, che probabilmente gli ascoltatori ricorderanno anche negativamente, perché l'applicazione in Italia è stata particolarmente negativa, cioè il governo ha detto: se ci sono delle persone che vogliono lavorare a un certo salario minimo nei villaggi, noi paghiamo queste persone per lavorare alle dirette dipendenze dei consigli di villaggio, perché in questo modo, accanto al salario, diamo anche una compensazione, chiamiamola non monetaria, che è il fatto di essere utili al villaggio. Perché faccio questo esempio? Sì, no, dico, no, io capisco che stiamo facendo dei passi indietro da gigante, però arrivare al villaggio, alla Grameen Bank, insomma, sto facendo esattamente questo esempio, non perché lo sto proponendo da realizzare in Europa, ma per dire che la necessità di legare sostegno al reddito con avvio di nuove imprese, nuove idee, sostegno alla ricerca, allo sviluppo e così via, sono soluzioni che magari nel brevissimo termine non hanno effetti molto rilevanti, ma creano un volano che nel medio termine può avere effetti. Allora, questa prospettiva di medio termine è quello che in questo momento credo imprese e famiglie sono alla disperata ricerca, e questo è quello che la politica, ripeto, non solo in Italia ma anche in Europa, deve in qualche modo prospettare. Beh, esistono anche dei settori tipicamente anticiclici. Io citavo le costruzioni, cioè che vanno contro la tendenza in atto. Questo vuol dire anticiclico. Se la tendenza è recessione, cioè calo del PIL, quelli sono antirecessivi. Penso alle costruzioni, penso anche, Giovannini, a tutto il settore del welfare, del non profit. Perché lo dico? Perché è chiaro che se una famiglia deve mettere in conto tagli al welfare, per cui oltre all'IMU, alle tasse e quant'altro, deve mettere da parte i soldi per la badante, per il genitore anziano, oppure per l'assistente sociale, per il figlio che ha alcune disabilità, è chiaro che la propensione alla spesa crolla ulteriormente. Tutto il settore del no profit, oltre che dal lavoro, ha anche una funzione di rete sociale che dovrebbe, diciamo, quantomeno sul fronte psicologico, avere un effetto di ammortizzatore sociale, no? Esattamente, questo è un modo diverso di dire il lavoro e il ruolo della persona come fattore di coesione sociale va messa al centro per riuscire a sostenere un periodo che forse non è breve di difficoltà. Le faccio anche un altro esempio, riguarda i giovani. Noi abbiamo oltre 2 milioni, lo sappiamo, di giovani che non studiano e non lavorano. Abbiamo quasi il 44% di giovani stranieri che non finiscono la scuola dell'obbligo. Allora, in altre parole, abbiamo potenzialmente la coorte, la generazione giovanile più formata, nonostante queste difficoltà che ho appena detto, che abbiamo mai avuto come paese, e la teniamo in panchina. Allora, riuscire attraverso strumenti di tassazione, ma anche di incentivazione, di credito e così via, a mobilizzare questa straordinaria risorsa è un altro modo per dire: vogliamo cambiare, vogliamo in una prospettiva di medio termine avere un salto, e quindi dobbiamo investire su queste aree invece che su altre. Ma è un approccio molto, molto keynesiano, insomma, fare lavorare anche per coprire le buche che hai scavato la mattina prima, cioè magari in maniera più produttiva. No, io non sto dicendo questo, non c'è bisogno di questo, anche se bisogna ricordare che molte delle nostre infrastrutture costruite negli anni 50, 60, cioè nel dopoguerra, dopo 60 anni hanno gravi problemi. E quando eravamo in OCSE, quando ero in OCSE anni fa, facemmo uno studio sul fatto che serve una manutenzione straordinaria di molte opere, e lo vediamo nelle nostre città, che non solo potrebbe migliorare la qualità della vita, ma sarebbe un'attività ad alta intensità di lavoro. Torniamo, io nel ringraziare il presidente dell'Istat, torniamo al tema che con questo clima sui mercati, per finanziare opere pubbliche di utilità, perché fanno lavorare e migliorano il sistema di un paese, occorre che ci sia un altro passo in Europa. perché sennò uno Stato va a indebitarsi, quindi il deficit poi sale, non rispetti gli accordi, i mercati ti puniscono e quant'altro. Ecco perché si diceva forse l'iniziativa non può che essere europea. Ma tant'è, grazie al presidente dell'Istat Enrico Giovannini, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani, confermo anche agli scettici che invece venerdì avremo, il giorno della fine del mondo, anche l'astrologa. Speriamo che di riuscire almeno a condurre la puntata venerdì prima che finisca il mondo. Ad Maiora. Radio 24. La passione si sente.